Che feste e che lamenti poi, e che danze e che dolci dolori, e che occidenti e strappi e squarci e scoppi, che sbucciature sbudellate sferze, e poi morendo.